Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo a metà della settimana, un nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te, Francesco. Bene, caro Gianluca, oggi parliamo di una vicenda che è accaduta a un vostro associato e ce la vorrai raccontare, anche perché credo che sia interessante, fa capire un po' come siamo sotto l'occhio del Grande Fratello. Il Grande Fratello in questo caso è l'Agenzia delle Entrate. Ma ti lascio pure la parola, raccontaci cosa è successo. Sì, allora andiamo a raccontare la vicenda di questo artigiano di origine calabrese, in realtà è residente a Mestre, e la raccontiamo nell'ambito di una vicenda di cui si sta anche parlando da un anno a questa parte, anche in alcune trasmissioni nazionali di approfondimento su questi argomenti. Allora, il problema è appunto la vendita di beni, di immobili in questo caso, e qua stiamo parlando di un terreno di proprietà della famiglia di questo artigiano mestrino, un terreno di 1200 metri quadrati adibito a pascolo, diciamo anche sovrastato da una piccola collinetta che si può definire franosa, e diciamo collocato in un paesetto, un calabrese che si chiama Sedia Marina, 7500 abitanti, insomma un piccolo paesetto in provincia di Catanzaro. Cosa succede? Succede che questa persona aveva in proprietà, la sua famiglia aveva in proprietà questo terreno che non utilizzava minimamente, insomma ha deciso di venderlo, anche perché il proprietario del terreno confinante ha chiesto appunto di poterlo acquistare. C'è stata una lunga trattativa, anche tra qualche difficoltà, perché non si riusciva ad arrivare al prezzo giusto, perché l'acquirente, il possibile acquirente, offriva non più di 10.000 euro, invece chi vendeva voleva almeno guadagnarci 20.000 euro. Siamo arrivati ai 20.000 euro famosi, quindi insomma bene o male lui con 20.000 euro è riuscito a chiudere l'affare. Però cosa è successo? È successo che quindi una decina di giorni fa, l'artigiano mestrino, come anche d'altronde l'acquirente che abita in provincia di Catanzaro, hanno ricevuto praticamente una multa, una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro. E il motivo è un motivo che lascia allibiti, per chi non conosce queste vicende, il motivo è che il prezzo della vendita, secondo l'Agenzia delle Entrate, è troppo basso, per cui è arrivata una sanzione. Il motivo è chiaro, cioè l'Agenzia delle Entrate dice: secondo noi questo terreno doveva essere venduto a più soldi, quindi probabilmente qua c'è stato un sotterfugio, probabilmente una parte è stata pagata in nero e noi vi sanzioniamo. Tra l'altro il proprietario del terreno è stato sanzionato con 10.000 euro, quindi non con pochi, con una multa bassa. Poi fortunatamente siamo arrivati a 6.000 dopo una contrattazione, però insomma è sempre una bella multa, anche se chiaramente poi la persona si è rivolta al nostro ufficio legale. Adesso cercheremo di capire se sia possibile eliminarla quella multa, andando a dimostrare che veramente quel terreno non può essere venduto a una cifra superiore. Mi domando, se uno vuole svendere perché ha bisogno di realizzare subito, e di solito il prezzo si abbassa di molto, no? E quindi come si fa a dire no, tu l'hai pagata troppo poco? È molto difficile questa cosa. Tra l'altro, Francesco, il calcolo dell'Agenzia delle Entrate è avvenuto in questa maniera, perché andiamo a dire anche quanto, a che valore ha dato a questo terreno. Allora, l'Agenzia delle Entrate ha studiato i terreni della zona di Catanzaro, che sono vicini esattamente a un chilometro dal terreno incriminato, e i quali hanno dei valori appunto cioè un terreno di quella grandezza, secondo l'Agenzia delle Entrate, in quella zona dovrebbe valere 72.000 euro. Ecco, avendo modo di parlare anche con il nostro socio, si fa capire che loro stanno dando il valore dei terreni che sono posizionati sì a distanza abbastanza ravvicinata, perché sono a un chilometro dal suo, però sono intanto, diciamo, steggiano la statale 106, se non mi sbaglio, ma sì, Sembra proprio così, ed è una statale in cui comunque ai lati di questa strada sorgono molti capannoni, sorgono molte industrie, quindi insomma diciamo che è una zona in cui si può pensare anche di avviare un'attività. Diciamo che comunque in generale in Calabria questi tipi di cifre, insomma anche i 72.000 euro si considerano elevati, però il terreno in questione non si trova minimamente sulla statale, ma si trova in paese, e come dicevo prima è anche sovrastato da una collina franosa, quindi non è in una posizione ideale. Infatti chi è che l'ha acquistato? L'ha acquistato il proprietario del terreno adiacente, perché certamente gli interessava allargare la proprietà, però ecco, non c'era un interesse particolare di altra gente, anzi. E quindi cosa succede, Francesco? Da qua la critica che noi muoviamo poi al di là di ciò che faremo con il nostro ufficio legale. Ci stiamo chiedendo se a questo punto i prezzi delle case non sia il caso che li stabilisca direttamente l'Agenzia delle Entrate, perché a questo punto, se non possiamo deciderlo noi, facciamo che lo facciano loro prima che ci arrivi una sanzione. Chiaramente questa è una battuta, ma per dire che per una lotta all'evasione giustissima, ovviamente, che appoggiamo in pieno chi potrebbe non appoggiarla, ecco, diciamo, per questo obiettivo andiamo anche a limitare le libertà personali. È palese questo, la libertà del mercato e il mercato immobiliare, che sappiamo già essere molto in difficoltà. Ma è incredibile, va bene, insomma, lasciamo che quindi il vostro ufficio faccia le giuste mosse, tienici informati anche su questa vicenda. Cosa potremmo consigliare quindi per non cadere in una cosa del genere? È impossibile, cioè, se uno vuole svendere qualcosa perché ha bisogno di realizzare subito, decide il prezzo e lo fa, poi se qualcuno ti viene a dire qualche cosa, uno prenderà in mano la situazione e si rivolge appunto a uno studio o piuttosto all'associazione difesa consumatori. Ed è questo il problema, Francesco, nel senso che noi indubbiamente non sappiamo, allo stato attuale non possiamo agire prima, chiaramente, cioè non possiamo agire quando il venditore ha deciso un prezzo, e noi agiamo nel momento in cui interviene l'Agenzia delle Entrate. Quindi una persona che svende può aspettarsi che l'Agenzia delle Entrate gli contesti con una sanzione il prezzo di vendita troppo basso. Cosa bisogna fare? Bisogna appunto intervenire e con la parte, diciamo, legale, ma anche con la parte fondamentale della figura del geometra, e niente, andare a smontare sostanzialmente la tesi dell'Agenzia delle Entrate e la tesi del possibile pagamento in nero. Vabbè. Questo bisogna farlo appunto andando a lavorare in due direzioni, che appunto sono quelle del compito del geometra e il compito dell'avvocato. Ecco, cercate di tenere i prezzi più alti che potete. A questo punto. E va bene, grazie Gianluca. Allora, a tra qualche giorno per un nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.